Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante il traghettatore, cominciamo con un invito a partecipare ad un concorso. Si chiama Roma Creative Contest, è un short film festival. È un concorso, la presentazione scade il 30 luglio, un festival di cortometraggi creato per valorizzare i giovani registi emergenti e le nuove tecnologie sostenibili. Con questa edizione il festival apre le porte al resto del mondo, perché ha anche deciso di organizzare una sezione internazionale dedicata ai corti di animazione. La partecipazione a questo concorso è gratuita. Parliamo ancora di sostenibilità, un termine assolutamente, come dire, tipico di Ferry Boat. Lo facciamo però in una maniera invece del tutto originale. Parliamo di cinema e sostenibilità, per una volta non perché il cinema racconta la sostenibilità, ma perché ne è protagonista a livello industriale. L'idea è di Carlo Cresto Dina. Buongiorno Carlo Cresto Dina. Buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Fondatore di Tempesta, una casa cinematografica. Carlo è un produttore cinematografico e con l'aiuto di Edison hanno studiato e realizzato un protocollo di sostenibilità ambientale per l'industria del cinema, si chiama Edison Green Movie. Carlo, che cos'è il primo protocollo di sostenibilità per l'industria del cinema? Beh, noi ci siamo accorti che esistevano già sul mercato, si legge nei titoli di coda di molti film, lo zero footprint, no? Lo zero impatto ambientale, però questi film tenevano questo zero impatto soltanto attraverso la compensazione. Certo. Io faccio un film come mi pare, poi alla fine compro un po' di alberi in Norvegia o in Amazonia e così mi compro un gettone verde. Noi volevamo fare una cosa diversa, volevamo studiare come si produce un film, come la macchina cinema funziona e capire se dall'inizio in tutte le azioni che portano una casa di produzione, un gruppo di lavoro a realizzare un film, era possibile per tutte queste azioni inventare una procedura, come dire, virtuosa che riducesse drasticamente l'impatto ambientale. Ecco, per entrare nei particolari, questo vuol dire la produzione di energia, riduzione di energia, di impatto ambientale, non so, magari anche il catering, il consumo della carta, così, anche nei particolari, certo, insomma. La cosa interessante di tutto questo, quantomeno per il grande pubblico, è il fatto che il set di un film è come un piccolo villaggio in cui si fanno tutte le cose, o quantomeno si mimano tutte le cose certo, che si fanno nella vita reale, si mangia, si beve, si produce energia, si sposta, si lava, si consuma di tutto. Certo. E così. Quindi a noi interessava anche il fatto di dire, ma se noi studiamo un piccolo metodo, un piccolo modello per ridurre l'impatto ambientale di un set cinematografico, è un po' come se lo trovassimo per la vita stessa. Questo ci interessava come spunto iniziale, però ci interessava che fosse, ripeto, una cosa scientificamente, come dire, ineccepibile, concretamente realizzabile. Dobbiamo chiudere, ma un'ultima, realizzabile e ineccepibile. Ecco, è l'ultima battuta per chiudere, ci sarà un primo film prodotto da Tempesta con questo protocollo? Sicuramente sì, ma non solo da Tempesta, perché questo è un servizio, è una proposta che noi facciamo a tutti i produttori di cinema. È possibile fare dei film che nel modo di fare sono meno pesanti per il nostro paese, e il prossimo passo è anche quello di esportare questo protocollo, perché è il primo protocollo europeo di questo genere in altri paesi. Bene, grazie ad Carlo Cresto Dina e complimenti per il progetto. Salute a tutti e buona giornata. Social Network e Sclerosi Multipla. L'Associazione Italiana della Sclerosi Multipla ha prodotto e rilasciato gratuitamente due ebook sul sito. Il primo si chiama Relazioni, guida ai social media. Il secondo, Narrazioni, guida al digital storytelling, dedicato a come affrontare al meglio la narrazione digitale. Questi ebook sono stati realizzati in collaborazione con l'editore digitale Quinta di Copertina. È tutto per oggi, vi invitiamo a cliccare su Mi piace alla pagina Ferry Boat Radio 24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Filippo Aureggi in regia. Alla prossima.